Il segretario di Stato americano ha chiesto al leader palestinese di appunto assumere un ruolo centrale nel futuro di Gaza da parte dell'autorità nazionale palestinese. Un portavoce appunto di Abbas ha poi dichiarato che il presidente palestinese ha chiesto disponibilità dell'autorità nazionale palestinese ad assumere il potere a Gaza unicamente come parte di una soluzione politica globale che includa anche la Cisgiordania e Gerusalemme Est al conflitto israelo-palestinese. Questa è difficile chiaramente in questo momento valutarla come una soluzione per moltissimi motivi, intanto perché appunto i bombardamenti sono in corso, siamo a oltre 10.000 vittime, delle quali oltre il 40% si tratta di bambini. Inoltre l'autorità nazionale palestinese è giudicata dagli stessi, dalla maggioranza, la larghissima maggioranza dei palestinesi stessi, come irrimediabilmente corrotta, inefficace. Ricordiamo che il controllo di Hamas sulla striscia di Gaza dal 2007 avviene a seguito di quella che viene chiamata una guerra civile tra Fatah e Hamas, che si svolge tra il 2006 e il 2007. Quindi il rischio di presentare questa opzione come una soluzione è quella in realtà di generare ulteriori divisioni, fratture, guerre civili all'interno del fronte dello scenario palestinese, soprattutto della società palestinese. Per quanto riguarda la Cisgiordania, dal 7 ottobre, dall'attacco terroristico di Hamas, si registrano arresti quotidiani di adulti ma anche di minori, appunto come parte di strategie di controllo e di contenimento operata anche dall'autorità nazionale palestinese, di concerto con i servizi segreti israeliani. Quindi questa è difficile immaginarla come una soluzione da parte dello stesso Blinken, che tra l'altro afferma ripetutamente l'appoggio alla soluzione dei due stati, una soluzione che, perché sia percorribile, richiederebbe da parte degli stessi Stati Uniti il voto a favore dell'istituzione delle Nazioni Unite, che condannano la crescita degli insediamenti nei territori palestinesi. Ricordiamo che si parla di oltre 700.000 coloni all'interno della Cisgiordania occupata. Quindi lo scenario sul terreno in realtà è molto lontano da questa ipotetica soluzione proposta ieri, e rischia in realtà di generare ulteriore conflitto e ulteriore caos in una situazione già catastrofica come quella attuale. Mi pare quindi di capire che non si possano fare i conti anche con Hamas. Hamas, ricordiamolo, quando vinse le elezioni, la maggior parte della popolazione che abita attualmente nella striscia di Gaza non era neppure nata, e sondaggi sui consensi verso Hamas all'interno della Cisgiordania e della striscia di Gaza fino al 7 ottobre del 2023 davano a Hamas un forte calo, dovuto anche appunto alla corruzione, alla crisi di questa leadership e alle condizioni di povertà estrema all'interno della striscia, legate anche chiaramente al blocco operato sulla striscia da parte di Israele dopo il 2006-2007. Quindi è difficile individuare degli attori. Sicuramente c'è una responsabilità da parte della cosiddetta comunità internazionale nell'avere in questi anni completamente delegittimato tutta una serie di movimenti, di attori politici e sociali all'interno dei territori palestinesi, che si sono mossi a partire dalla fine della seconda intifada per chiedere alternative politiche percorribili. Penso a un accesissimo movimento associativo che si è mosso all'interno della Cisgiordania, anche con legami internazionali, per chiedere ad esempio politiche non violente di boicottaggio, ritiro degli investimenti, nei confronti di Israele. Penso alle manifestazioni largamente pacifiche che a partire dalla fine della seconda intifada si sono appunto svolte in numerosi villaggi palestinesi. Penso alla marcia del ritorno nella striscia di Gaza dal 2018, tutte proteste in larghissima parte non violente, che testimoniavano una forte spinta, un forte dinamismo sociale e politico palestinese, che sono state sempre represse e spesso nel sangue.